Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 14 giugno 2015. L'SMS anticoda nato a Padova, protagonista anche in Europa. Pier Mattia Avesani e Alberto Siletto stanno conquistando l'Europa. 5 anni fa questi due giovani ricercatori hanno lanciato il loro sistema anticoda, che permette di evitare le lunghe attese allo sportello grazie ad un semplice SMS. Negli ultimi anni, oltre ad aziende ed enti pubblici italiani, il servizio offerto dalla società padovana Ukido è stato esteso anche al resto d'Europa, dove sta riscuotendo un grande successo. Fin qui la notizia del 14 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Ukido è una giovane startup padovana nata da un'intuizione che si è trasformata in un sistema intelligente per eliminare le code. Il sistema è basato su un algoritmo che calcola il momento esatto in cui scatta il nostro turno e ci invia un SMS, permettendoci così di fare altro nei tempi di attesa. Pier Mattia Avesani al microfono di Valentina Furlanetto. È nato tutto nel 2009, ero in una sala d'attesa e del prelievo del sangue di un ospedale e ho pensato appunto che fosse veramente assurdo che nel 2009 ancora non ci fosse una soluzione per non aspettare in 100 dentro una stanza il proprio turno. Ho pensato, cavolo, do il mio numero di cellulare al mio vicino di sedia e mi faccio richiamare quando vede che si sta avvicinando il mio turno. E che è un pensiero abbastanza banale e impraticabile, perché non puoi dare il tuo numero di cellulare al primo che passa, e quindi ho detto, potrei darlo a un PC che rispetta la mia privacy e il PC mi richiama in sala quando vede che sta arrivando il mio turno. E poi ne ho parlato con un amico che è un PhD dell'Università di Ingegneria di Informatica di Padova e abbiamo detto, potremmo pensare di simulare questa cosa, vedere se effettivamente siamo in grado di prevedere i tempi di attesa di un utente, no? Sì, se lei adesso a Padova domani vuole fare il prelievo del sangue, noi abbiamo installato un'evoluzione di questo primo sistema di 3 anni fa all'ospedale di Padova. Vuol dire che oltre a essere già in sala d'attesa e mandare l'SMS quando è già lì e ha già il turno in mano, può farlo anche oggi, adesso. Lei manda un SMS a Ukido con scritto «Io domani voglio fare il prelievo del sangue all'ospedale San Massimo verso le 9», ok? In italiano, io interpreto il messaggio, cioè Ukido interpreta il messaggio e le dà il turno per il giorno successivo, quindi lei ha il 38 domani alle 9.07, quindi lei si presenta con il suo cellulare invece che col bigliettino, il 38 si accende sul display e lei senza fare un minuto di coda e senza essersi svegliata alle 6 per prendere un turno può fare il prelievo del sangue. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.